Ben arrivati nella mansarda di Dr. Pirates. Parleremo del mito di Blade Runner, o meglio, del seguito del mito, Blade Runner 2049. Quando fanno il seguito di un film che è leggenda, dopo tantissimi anni, io rimango sempre un po' spiazzato. È un po' come disotterrare un cadavere importante per delle motivazioni di cui non vediamo l'importanza. Parliamo di Blade Runner, per molte persone, me compreso, è il film culto per eccellenza, rappresenta il cinema. Per cui la prima cosa che mi viene in mente è: ma ce n'era veramente bisogno? Perché Blade Runner era perfetto, anche nella sua fine, anche nella Director Cut e l'unicorno, e sì, dai, lo sapete, ci siamo intesi. Il mito trae ispirazione da un breve racconto di Philip Dick, uno dei padri del cyberpunk. La pellicola di Ridley Scott è riuscita a suggestionare il mondo intero, non subito però, con il passare del tempo, perché certe leggende non vengono subito riconosciute. Ora un seguito. Veramente? Sì. I fan, anzi no, gli adepti, i cultisti di Blade Runner, perché noi in pratica siamo una setta, sono pronti al linciaggio mediatico. Per cui cosa sappiamo di questo nuovo Blade Runner? È diretto da Denis Villeneuve, talentuoso, anche visionario, e su alla regia dell'acclamato Arrival. Guardando i trailer, oltre alle ovvie atmosfere noir e cyberpunk dispotiche, che per forza ci devono essere, le quali però non potranno mai rivaleggiare con la Los Angeles delle piogge acide di quel 2019 immaginato nel 1982 e il mitico suono iconico dei sintetizzatori del maestro Vangelis, sempre sia lodato, apprendiamo che ora la posta in palio è molto più grande. Si parla di un segreto pazzesco che riguarda tutta la società. Rimango un po' basito. Insomma, Blade Runner è il classico noir, ambientato in un futuro, ma sempre noir. Adesso abbiamo invece la super missione che riguarda il mondo. Abbiamo poi Harrison Ford, che sembra vivere ai margini della società, il quale viene contattato da il suo equivalente da giovane che fa il lavoro che faceva lui, ovvero Ryan Gosling, accompagnato dal suo sguardo tenebroso. Insieme indagheranno su questo terribile segreto. È vero che il cinema è sempre una questione più di come si fanno le cose che di cosa, però mi viene da dire viva la originalità. Penso che delle premesse più banali non si potessero ipotizzare. Tra altre cose sento, anzi leggo, di eccitazione per l'universo di Blade Runner, ma vogliamo farlo diventare come i film tratti dei supereroi? Veramente dovremo discutere su cosa gli sceneggiatori e il regista ci infileranno dentro, se saranno cose plausibili o meno con uno dei film più leggendari mai fatti? A me pare un po' svilente ed inutile qualcosa del genere. In tutto questo non voglio mettere in dubbio la qualità della pellicola, perché non la conosciamo, ma voglio mettere in dubbio il senso di un progetto del genere. Ma però viviamo in un'epoca di clonazione, di remake, tanto per dire probabilmente arriverà anche il remake di Scarface, per cui non c'è nulla di cui stupirsi. Say hello to my little friend. Comunque, la fine di Blade Runner era perfetta, la storia si concludeva in modo plausibile, a seconda delle interpretazioni andava bene lo stesso, senza tra altre cose quella voglia che trovo inutile e dannosa del voler sapere tutto da parte dello spettatore, tipica dei giorni nostri. Io ritengo ci sia una nefasta voglia di farsi pipponi mentali sui film, eccitandosi con la costruzione di universi, lore, contesti, chiamateli come volete. Forse è stata colpa dei serial TV? Forse dei supereroi? Non lo so. Il cinema che amo io è differente, per cui io, insieme a tutti i vari cultisti di Blade Runner, siamo basiti di fronte a questa operazione. Penso che il film andrà giudicato sotto due punti di vista, di per sé e poi con il fardello di Blade Runner, sì, ma tanto a Blade Runner nel titolo. Io comunque posso anche capire che tra le mille sceneggiature e soggetti che girano su futuri dispotici, cyberpunk e via dicendo, se ci metti Blade Runner nel nome crea aspettative assurde. Ma i seguiti, i remake di queste leggende sono come la clonazione della pecora Dolly. Non pretendo che tutti condividano il mio punto di vista, ma penso sia una visione più razionale di quanto non possa sembrare. Ovvio che ci sono in ballo le emozioni, i ricordi, i sentimenti, ma ci sono anche tanti dati più oggettivi, penso. Adesso scusate, vado ad ascoltarmi un po' di oscura synthwave per immaginarmi il futuro visto dagli anni 80. Non conoscete la synthwave? Affari vostri. Comunque, sempre in gamba.